Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Eccoci qui, questo 29 di gennaio, giovedì. Venerdì. No, io dico giovedì, perché quando vedo sui giornali che sono le epiche battaglie italo-tedesche, io sto sul giorno prima, non vado su... No, sto scherzando. C'è un po' troppa enfasi, diciamo, su questi giornali italiani, alcuni, poi addirittura il premio grande Lecco d'oro a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, che descrive questa specie di scontro che ci sarà oggi con un eroico duce italiano che ci vendica sulle ingiustizie subite. Credo che dica condottiero, però vabbè, c'è un po' troppa enfasi in questo 29 gennaio. San Costanzo da Perugia, sì. il santo della pasta scotta, perché siccome il console Lucio lo mise nell'acqua bollente, dice adesso ti faccio vedere io, e lui invece ogni volta usciva dall'acqua bollente dicendo non mi hai fatto nulla, quindi è il santo della pasta scotta da questo punto di vista. E poi auguri anche a Valerio, Sabrina, Gildas, Sulpicio, Aquilino. Di Aquilino ne conosco uno, quindi è un santo il cui culto è molto diffuso in Germania, e quindi questi sono i santi del 29 di gennaio, quelli che vegliano sul grande scontro italo-tedesco. Mi fai un pronostico per il derby? Che così insomma, visto che poi noi lo tagliamo e lo mandiamo in onda, tanto a te non ti interessa molto di me. No, però è sempre un punto di riferimento del calendario nazionale, oltre a quello liturgico. Vabbè, giorno per giorno pronostico, dai, c'è il derby. No, io non posso, io sono contro quelli dell'1-0 che credevano di vincere il campionato. Sei contro l'Inter, vabbè, però non è un pronostico, però vabbè sono contro, però lo teniamo così. Allora, cari italiani, 800 24 00 24, hai visto quello che fanno in Svezia? Sì, ho visto che fanno in Svezia. Cacciano 80.000 immigrati. Hanno improvvisamente dato un loro contributo costruttivo a spiegare che Salvini è diventato uno dei leader europei. No. Guarda, è così, è inutile girarci intorno. Ma non è Salvini che dà la linea, ma è la linea di Salvini che si stende in governo di sinistra, in tutta Europa. Cioè, da due giorni di ieri a Milano, secondo me molto sottovalutata dai giornali italiani, tranne La Stampa che fa due belle pagine. E dovrebbe fare riflettere, perché oramai tutti coloro che hanno guardato per anni con spallucce e sorriso sulle labbra a quei temi, alla fine fanno esattamente quello. Ma secondo me dà l'esempio, come abbiamo detto ieri, di un'Europa disunita, e quindi essendo disunita ognuno fa il cavolo che gli pare, e forse ma nocciolo è, lo so che non lo vuoi dire, nocciolo è. Sì. Quello che gli pare è quello che diceva Salvini da anni? Sì. Ma sì, su questo tema sì, visto che si parla di chiudere Schengen. E infatti Salvini, per questo io sono allarmato. Non è che ci sono un po' di tempo. Perché non è che se uno lo chiama in un altro nome cambia la sostanza. La sostanza è che l'Europa non è all'altezza di quello che invece ha predicato per anni. Però prima ci siamo un po' accapigliati su questa decisione della Svezia, prima di andare in onda, perché io in maniera, è chiaro, ovviamente un po' forzata e polemica, dico, ma insomma, oggi leggo il titolo per esempio di Repubblica, 80.000 profughi respinti. Hanno esaminato le domande, le hanno respinte, non sono profughi. Uno è profugo quando arriva in un paese, fa la domanda e la domanda viene accettata. E io ti ho contestato dicendo, vedi che non vuoi dire che sono le cose di Salvini, e quindi diventi formalista, perché improvvisamente la Svezia, quale sia il politico, allora, Giannino arriva, io profugo, respinto, cosa vuoi fare? Respinto. Cioè tu stai dicendo che hanno respinto a priori queste 80.000 domande. Ma certo, come si dice, come si vede nella loro dichiarazione, siamo troppi, punto. Ecco, questo è, siamo troppi. E non possiamo più accoglierli. Benissimo, però è l'effetto. Se dici a tutti i profughi afghani venite, sto parlando ovviamente dell'annuncio non coordinato assunto dall'estate, ecco l'effetto qual è stato. Perché molti stanno in Germania, altri vorranno andare da altre parti, e la Svezia se l'è ritrovati, per esempio. Vogliono andare in Danimarca e in Svezia, non a caso i paesi di cui stiamo parlando. Ieri parlavamo democrazie, della grandi democrazie. Però come vede l'Europa collassata, quindi alla fine meglio evitare di far spallucce di fronte a tutti i leader che ieri sotto l'egida della Lega erano lì, perché ohimè quelli sono quelli che prendono i voti nell'Europa di oggi. Poi è vero che noi crediamo invece che la politica sia dare 5 posti in più a NCD nel rimpasto, certo. Però è perché siamo malati noi, no? Capisci? Cioè, è vero. Sì, ma nel rimpasto adesso ne parliamo. Però questa cosa della Svezia io non la critico. È chiaro che è una scelta politica. Vedi, un ascoltatore subito dice: la Svezia ha fatto la cosa giusta, ha esaminato le domande, espulso quelli che non hanno diritto. È chiaro, tu dici, quelli che non hanno diritto l'hanno stabilito un po' così grossolanamente. No, hanno stabilito i primi, prima sono arrivati che adesso erano basta. Pieni e dopodiché adesso vediamo come mandarli via. Il sospetto sul quale ti seguo è la celerità con la quale hanno esaminato migliaia di domande. Sono loro stessi che spiegano politicamente a ora adesso basta, non è un sospetto. Loro stessi si sono anche attaccati alla formalità. E sì, ma tu ti attacchi solo alla formalità. Abbiamo respinto le domande. No, perché tu citi loro e loro dicono abbiamo respinto le domande. Abbiamo esaminato le domande e le abbiamo respinte. No, spingere è un'altra cosa che resuminarle. Abbiamo respinto le domande. Respinto. Questo lo dici tu che l'abbiano fatto così in due giorni. Vabbè, come vuoi, però adesso suore, senza perdere troppo tempo su questo aspetto qua. La cosa è che il segnale politico è: tutti i governi seguono la via Salvini-Le Pen. No, più che altro le linee singolari, le linee di stati singoli, non di un'Unione Europea, che in effetti non esiste. Guarda che oggi il ministro Gentiloni, però, sommando stampa, la Slovenia, la Polonia, l'Ungheria, la Francia, infatti, la Danimarca, infatti, l'Olanda, Gentiloni, la Svezia, per la prima volta sdogana questa cosa dell'Europa a due velocità, diciamo, non è il massimo, ma forse è anche il caso di iniziare a parlare. E allora però se è il momento di iniziare a parlare su questo, capisci che l'Italia non ha se non il ridicolo per respingere che ci mettano anche un po' fuori dall'euro, capito, nel secondo girone. Siccome noi abbiamo sempre detto che questa idea, l'idea della coalizione, dei Winning Bicol Coalition, voluta da Schäuble anche sull'euro perché non si fidano di noi, era sbagliata, se noi iniziamo a difenderla su una cosa, allora dobbiamo accettarla anche per tutto, no? Basta vedere il grande accordo sulle banche, che fine ha fatto 3 giorni in borsa e che continuano a scendere perché le nostre banche sono malate. Noi continuiamo a dire che il problema sono degli altri ed è per colpa dell'Europa che non riusciamo a sgravare i crediti deteriorati. I mercati danno il giudizio giusto ed è un giudizio che dice: ma chi la volete raccontare? Certo. E intanto qui ci sono le poltrone, gli strapuntini. In Italia le poltrone non mancano mai. Le torna sottosegretario anche quello che lo divenne solo per 24 ore perché non voleva far pubblicare le notizie in Calabria. Sì, però la vicenda pare sia stata chiarita, sì, almeno così dicono i giornali, certo. È stata chiarita. Ma poi c'è, allora, se ho capito bene, il viceministro Costa del Nuovo Centrodestra diventa ministro. Poi ci sono dei viceministri che entrano un po' così. Zanetti da sottosegretario viene promosso viceministro. E io mi auguro che gli diano le deleghe, perché sennò sarebbe una beffa, e so che lui la pensa come me. Quindi, sì. Insomma, poltroncine, dai, poltroncine. Chi è che viene premiato? Il Nuovo Centrodestra. Il Nuovo Centrodestra. Perché Alfano dice: guardate che senza di noi non c'è il governo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Verdini non è poi così decisivo? No, vuol dire numeri? Che è il prezzo per la commedia di far fuoco e fiamme a parole sull'unione civili, ma senza però trarne le conseguenze. Cioè, vuol dire che con questo il Nuovo Centrodestra ingoia l'idea della legge sui diritti civili? Sì, con lo sfogo di dire faremo un referendum, ma senza trarne le conseguenze, anzi in cambio di un pingo a bottino di sottogoverno. Va bene, sono cose che in politica sì, sono nuove. Bell'Italia, no, no, sono nuove. Non io la grande battaglia politica che vorrei farti, sì, consiglio a te. Sì, lo so, Oscar questa... è colpito da una foto ma sul giornale. No, foto dovunque, foto. Ma la sostanza oltre. A parte, ma chi l'ha detto che dobbiamo sopportare queste insulse toghe di ermellini della Cassazione? Gli ermellini erano i simboli della regalità, del re assoluto. Levatevi queste cose, no, di poveri capire, animali addosso. Fammi capire, esatto, tu ne fai una battaglia... animalista, diciamo così. No, io ne faccio una battaglia. Primo, gli ermellini sono sacri, mentre i magistrati no. I magistrati no. Primo. Secondo, ma più un ermellino di un magistrato. Io non ho nessun dubbio. Ma detto questo, ma dai, ma come? Nessun dubbio. Detto questo, è anche un simbolo di altri tempi che guarda caso resta solo ai magistrati in Italia. Guarda caso, cioè capisci. Bene. Quindi leviamogli queste cose qua, queste sfilate. Adesso poi, siccome sono più del 50% le signore della magistratura italiana, e io sono felice preferisce di questo. Però adesso vedere questa sfilata del Signoretto. Gli ermellini. Non ti piacciono gli ermellini? Fossi presidente della Repubblica. Ma magari sono ermellini sintetici. Non me ne importa. Il simbolo della sovranità assoluta sulle spalle del signore magistrato. Via! Sono due cose diverse. Via. Questo è il simbolo della sovranità. Ma, tanto ma, più se è un ermellino. La battaglia animalista, se sono sintetici. Tanto più se è un ermellino. No. Tanto più se è un ermellino. E a proposito di foto, guarda, l'hai vista la foto del presidente del Consiglio con l'Emiro Altani che ieri sera era a cena a Palazzo Madama? Ma hai visto? L'Emiro Altani sembra gigante, lui è un povero topolino. Cioè, c'è Renzi che per salutarlo alza la mano. Vista? Quanto è alto questo Emiro? L'Emiro Altani, che stavolta non era vestito con la grande cappa, eccetera, ma era vestito con un doppio petto all'occidentale. Sì. Te la faccio vedere, te la tiro fuori. Guarda, è una foto di quelle che, avendo la vista, Sua Altezza, d'altronde. Ma cacchio, Sua Altezza davvero, perché povera Agnese, ho capito che la signora Renzi si deve accontentare di un topolino, Vabbè, insomma, tra l'altro questa burletta delle statue forse la chiudiamo, perché L'hanno mandata in pensione anche esatto, Ilva Sapora forse tra poco va in pensione, ma anche sai che anche dalla Francia il francese Valls dice: ma che fate con le statue in Italia? Quella che era la risposta all'attacco alla Francia che il premier italiano ha fatto con l'intervista a Francoforte al Germania. Prima di andare in Germania ha detto: ah, questo asse coi francesi deve finire la parte tedesca. Il minimo è che il premier Valls dopo un'ora ti risponda sulle statue. Il minimo. Sì, effettivamente. Però sai che adesso, secondo il quotidiano Libero, c'è anche questa. Pare che sia una ritorsione, perché se ne è occupata la Farnesina, cioè gli affari esteri, che ha mandato lì un funzionario molto giovane, molto poco esperto per gestire questa cosa, per fare una vendetta col governo. Perché il governo ha scelto Calenda come ambasciatore e non ha scelto tra gli ambasciatori. E quindi ha dato uno schiaffo ai diplomatici. Questa sarebbe la lettura di Franco Bechis, cioè proprio una bega interna. Sì, ma è tutto Umberto Eco, il nome della rosa, sì. Cioè, non c'è mai una vicenda italiana in cui c'è un responsabile chiaro. Comunque, scaricabarile della politica, questo è vero. Questo è vero. Sì. Il punto vero è questo qua. Esatto. Va bene, 800 24 00. Ma io ci tengo a farti vedere la foto del povero Renzi con l'Emirone. E basta, sul Messaggero. Le Mirone. Frosinone è la città più inquinata d'Italia. Altro che, mica Milano, mica Torino, è Frosinone. Questo lo dice Lega Ambiente. E questo c'era un bellissimo tabellone sul Corriere della Sera. Quindi solidarietà ai frusinati. Credevate di poter fare invece? Invece siete quelli messi peggio d'Italia. E Trieste è la migliore. Però a Trieste c'è la Bora. Buoni tutti a essere senza inquinamento con la Bora. Vabbè, comunque mi scrive un ascoltatore, ci scrive qui su WhatsApp e dice: carissimo, sono Giuseppe, ho scritto già un'altra volta, mi avevi promesso che il vostro segnale sarebbe arrivato anche dopo Eboli e invece vi fermate a Eboli come il più celebre, palestinese. Oddio, io posso promettere, avrò promesso Giuseppe che informavo chi di dovere che il segnale per come fa a ascoltarci Giuseppe, questa è la verità, insomma, forse online. Vabbè, con una galena lì che si cerca il messaggio. Cercherò di mantenere questa promessa. Intanto, oppure lui va a nord di Eboli tutte le mattine e poi torna sotto la faccia e scopre che non c'è il segnale. Ci chiama Alessandro da Bergamo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, io sono straniero, no, però non ridetene. No. Sono bulgaro. È bulgaro. Ha un accento bergamasco. Un accento meraviglioso. Facciamo un esame, ci dica qualcosa in buci. Vivo qua da 20 anni, cioè, io non so più che sono, o bulgaro o italiano, non lo so. Ci dica qualcosa in bulgaro per passare l'esame, una frase non insulti. Aldo Giovanni e Giacomo. No, vabbè. Prova la sera. Ha un'ironia strepitosa. Vabbè. Quello che volevo dirvi di Salvini, cioè lui è contro tutti gli stranieri e va bene, ma io sono d'accordo con lui, perché, come si dice, quando viene uno, ha pagato tutto quanto, ha pagato, come si chiama, io da 20 anni che vivo qua, ho pagato tutte le tasse, ma quando viene uno da fuori, poi pretende, l'Italia li paga 35 euro al giorno, di albergo, cioè, non è che pagano, piscina, non è che pagano a loro, l'abbiamo detto tante volte, lo paghiamo noi, No, ma non è che vengono dati a loro. 35 euro viene dato alla cooperativa, se è una cooperativa che gestisce servizio dando loro vitto, alloggio, a loro vanno credo 2-3 euro al giorno per le piccole spese. Però dopo pretendono internet, pretendono anche la scheda telefonica, pretendono tutto. Cioè, scusi un attimo, io che ho sempre pagato le tasse e nessuno mi dà niente, a questi qua appena arrivano li danno tutto. Non accetta questa cosa. Ecco, io questa cosa qua non l'accetto per niente. Va bene. Bravo Bulgaro, ci scrive un ascoltatore. Grazie Alessandro da Bergamo. Alessandro Bulgaro da Bergamo. Però, guarda, io sottolineo questa cosa, perché se tutta l'aria che tira dall'Europa è questa... L'informazione italiana può credere di tenere sotto traccia Salvini quanto vuole e sottolineare le sue irrituali, impulsive, eccesse quotidiani con cui ieri ha fatto una raffica di dichiarazioni tutte sopra le righe, usando termini, però poi alla fine si spiega perché nei sondaggi di consenso ce l'ha e vedi, le telefonate testimoniano che poi la gente va alla sostanza, dicono ma se lo fanno i grandi governi europei che ci avete indicato come esempio, perché allora non dà ragione a Salvini? Tra l'altro lo volevamo sentire, Salvini ieri è intervenuto, ha detto di Schengen, sentiamo. Schengen è finito, se la Svezia con un governo di sinistra oggi annuncia voli speciali per espellere 80.000 clandestini, voi capite che questa immigrazione, questa Europa hanno fallito. Insomma, questo è il sunto di Matteo Salvini. Ci fanno notare, caro Oscar, che anche i magnifici rettori portano gli ermellini. Devo ammettere che secondo me bisogna levarli dalle spalle di chiunque. Soprattutto se ermellini veri. Ma in ogni caso. Ma mi scandalizza meno che sia sulle spalle di un rettore università piuttosto che sul magistrato, che in quanto uno dei tre poteri dello Stato dice io sono sovraordinato a tutti, sono io che porto l'ermellino che appartiene al re sovrano. Oh, eccolo lì. Ma quando mai? Oscar e la polemica del venerdì. 800 24 00 24. Tra poco noi parleremo di quanto alcuni partiti, ma non solo partiti, associazioni, insomma gli affitti a Roma, voi che avete un affitto a Roma, diteci, scriveteci quanto pagate d'affitto al 349-238-6666. Però non stiamo parlando di chi si deve lamentare di quelli altri, scriveteci di gli affitti bassi che pagate nelle case pubbliche. Esatto, perché parleremo degli affitti del patrimonio comunale di Roma, perché si sono scoperte delle belle cose, partiti che pagano quanto? 5 euro, 10 euro? No, anche qualche centesimo al mese. Anzi, che hanno sospeso di pagare qualche centesimo da anno. E ora c'è uno che gli richiede, sai chi è questo? Tronca! Viva Tronca, diciamolo pure. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Eccoci qui alle 8:40 minuti, cari ascoltatori. Allora, caro Oscar. Devo dirti che la cosa che mi ha fatto molto sorridere stamattina, ma adesso andiamo al punto di cui ci dobbiamo occupare con i nostri ospiti, è la lettura vera che dà il foglio di questo imbarco di sottosegretari di Alfano, perché dice in realtà Alfano non può dirlo, ma questo rende ufficiale, lui apparterrà al listone di Renzi. Allora tu capisci che dopo tutti questi anni a dire che è un governo di centro-sinistra, che quello è il centro, e vanno tutti nel listone di Renzi, finirà un equivoco nella politica italiana. E da questo punto di vista, bene così, ma andiamo al tema. Ma il tema, qualche tempo fa noi abbiamo ospitato il signor Giampaolo Cuccari, che è un cittadino che aveva denunciato alla Procura, alla Corte dei Conti, il fatto che molti immobili di proprietà del Comune di Roma erano affittati a prezzi risibili, o no? Signor Cuccari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dato che fine ha fatto la sua denuncia, ne sa qualcosa? No, non ne so qualcosa, però non è che mi devo relazionare sullo stato dell'arte, oppure forse neanche serve un'audizione, perché i dati erano talmente certi e sicuri che quindi spero che stia procedendo un po' tutto. Ci dica la cosa più clamorosa che ha scoperto. Beh, abbiamo scoperto, lì è stato scoperto che c'erano 42.000 appartamenti del Comune di Roma, del patrimonio disponibile, quindi diciamo legati a criteri di assegnazione, mentre qua ci sono tutti quanti degli immobili che non sono neanche del patrimonio non disponibile, quindi sono a discrezione. Parliamo soltanto di questi, che sono 42.000. Sul comune di Roma si può cliccare tranquillamente, sullo stato degli immobili, e di questi 42.000, 24.000 venivano anche date tutte quante i costi d'affitto. Mi è caduto all'occhio della vicenda che erano tutti quanti al centro storico, bene o male. Sì. I prezzi di affitto erano 7,75 al minimo. 7,75, 7 euro, 7 euro, cioè non 7,75, non è 775, no, 7,7 abitazioni erano 7,75, altri 7.000 al di sotto di 100 euro, insomma, per farla breve, soltanto lo 0,06% corrispondente a 16 appartamenti superavano il 1.000 euro, mentre il 95% di questa operazione stava al di sotto dei 300 euro. 300 euro. Alcuni a 7,75 euro, sì, che detto, sì, il prezzo, sì, di una pizza. Grande. Meno di una pizza. Poi in questi casi c'erano anche non soltanto degli appartamenti, ma anche delle locazioni, quindi... E niente, poi tirando due conti, insomma, l'affitto medio di questi appartamenti, perché non si conosceva la dura, quanto superficie fossero, anche se essendo al centro storico, sì, e risalente alla legge dell'87, non si pensa che siano 40 metri quadri, ma saranno almeno 200 metri quadrati in su. Si diceva che si percepiva 54 euro di media mensile, 54. Peraltro con un costo di 112 euro per la manutenzione. Esatto, l'effetto è, però, questo, ragionateci, non è solo Roma. Il dato su cui ha concluso questo benemerito cittadino, che io ringrazio, Giampaolo Cucca, che ha dedicato il suo tempo alle iniziative civili, ci ha messo la buona volontà, è andato a fare l'esposto. Queste sarebbero i cittadini ideali della Repubblica. Detto questo, la sua conclusione, cioè sul patrimonio pubblico, lo Stato, non solo il Comune di Roma, ci perde soldi invece di guadagnarli, cioè non è capace di gestirli. Questo vale per l'intero patrimonio pubblico italiano. Come complessivamente, dice il Tesoro. Abbiamo i dati su Roma, ma tra l'altro, insieme a Giampaolo Cuccari, vogliamo salutare la segretaria del circolo PD, uno dei circoli PD storici di Roma, in via dei Giubbonari, Giulia Urso. Buongiorno, buongiorno e benvenuta. Perché ieri abbiamo letto ancora, e da un po' di tempo, e si parla sui giornali, che tra i vari affitti, tra le varie locazioni a prezzi risibili, ci può passare questo termine, c'è anche gli affitti di alcune sedi di partiti. C'è una polemica sulla sede di quanto pagate? Quanto pagate? Io credo che innanzitutto ringrazio anch'io il signor Cuccaro per aver posto l'attenzione su questa cosa. Cuccari. Perché Cuccari? Sì, Cuccari. Allora, signor Cuccari, Giampaolo, la ringrazio anch'io di aver messo l'attenzione su questa cosa, perché da anni anche noi cercavamo un interlocutore per mettere a posto la nostra situazione. Fino all'ultimo, fino a Marino, abbiamo una lettera che abbiamo anche pubblicato dappertutto, perché dicevamo, ora, la nostra posizione è che voi ci chiedete 1.200 euro al mese. Questo chiede il Comune, 1.200. Perché poi c'è questo questo, diciamo, saldo da fare, che è abbastanza grande. Perché quanto pagate invece? Noi invece paghiamo 100 euro, ma sappiamo bene che è poco. Noi volevamo pagare di più, certo. Infatti, tanto è vero che nella mia gestione del PD, del circolo, ho messo da parte dei soldi, sapendo che sarei dovuta andare incontro ai nuovi criteri. Ma scusi, perché pagate 100 euro? Siete morosi, quindi perché pagate 100 euro? Siamo morosissimi. Ma rispetto ai 1.200 euro che chiedevano loro, senza un'interlocuzione, loro hanno mandato un bollettino dall'oggi al domani, loro era l'Armeo all'epoca, mandando un bollettino senza un ripensare il contratto. Lei pensa che quella è una concessione fatta nel 1946 con Regio Decreto, sono 70 anni quest'anno. È meno male che l'hanno aggiornata, però non crede. No, cioè all'inizio, mi faccia capire, all'inizio, prima del 1.200 euro, quanto era il contratto di locazione ufficiale? Era sempre una cosa simbolica di 32 lire. È sempre stata una cosa, sì, all'epoca, nel 1946. E no, ma in epoche più recenti, prima che vi chiedessero 1200 euro con questo adeguamento, questo erano 200.000 lire, questo era l'ultimo adeguamento, 200.000 lire, e abbiamo sempre mantenuto quella, chiedendo però in continuazione, e anche i segretari prima di me, di incontrarsi per ridefinire il contratto, la concessione, perché in realtà noi non abbiamo neanche un contratto. Vi rendevate conto anche voi che 100 euro erano un po' pochini? Ma certo, il problema sono i criteri, perché 1200 euro può essere quello che può pagare un'agenzia, forse un circolo, che comunque non è solo, come dire, memoria, ma non ha, il nostro circolo non ha mai musealizzato la memoria, pur essendo 70 anni. Ho capito, là. Ma è quello che pagano i cittadini, Oscar, cioè 1200 euro, se fosse una casa in via invece di una sede del PD. Il partito presume che non è un cittadino. Sono dei criteri, il valore di un, ma non solo del nostro, io so che questa circolare. Ma vale anche per altri partiti, è vero. No, ma non, certo, non solo per altri partiti, ma anche delle associazioni di persone disabili, di cose che è ovvio. Tu devi guardare ai criteri con cui tu affitti una cosa. Allora, però adesso, l'associazione dei disabili credo che faccia qualcosa di più rispetto a una sede di un partito. Ma è il mio parere. Ecco, sicuro che Giulia Ursa ci segue. Gli occhi dei cittadini che scoprono leggendo, visto ritualmente, ma questa volta di nuovo, perché l'iniziativa di Tronco ha riportato al centro dell'attenzione la faccenda che ci sono decine e decine di appartamenti nel centro di Roma con canoni di poche centesimi al mese addirittura, e con le trasmissioni televisive che mandano la sera agli inquilini dicono: no, ma che pochi centesimi al mese, noi da anni non paghiamo niente, addirittura abbiamo sospeso la cosa. Io sono d'accordissimo su questo, allora, anche sul mio prima circolo, dei criteri, prima dei criteri secondo me bisognerebbe dire che anche come Giampaolo Cuccari, cittadino che va e fa l'esposto, Tronca che dice: signori, adesso però questa roba deve finire. Il commissario lo fa non a caso, mentre i sindaci politici precedenti non lo facevano. No, ma lei dice: dobbiamo pagare di più, ma non sta bene 1200. No, non sta bene, definiamolo insieme. Poi se si decide che anche 1200 va bene, si rifà un contratto e pagheremo 1200. Ma voglio avere un interlocutore, non l'ho mai avuto in questi anni. Adesso guardi, non lo cerchi in Tronca, perché secondo me non va benissimo. Scusi, ma è vera la frase che lei ha detto, 1200 euro li potrebbe pagare, che ne so, una friggitoria, ma non certo un partito? Sì, non so chi l'ho detto, ma è vero, una friggitoria può guadagnare. Allora, forse, non lo so, lei sa benissimo che non percepiamo soldi poi con il finanziamento pubblico, adesso che non c'è, ma noi ci leggiamo sulle tessere, che sono tante. E sul fatto che posso fare un tipo di politica non spendendo molto, stando attenta, facendomi regalare questo, quello è un circolo dove, per esempio, le cose dei rifiuti delle mense, quello che dovrebbe essere buttato ma che è buono, viene messo in un grande vassoio sul centro del tavolo e passano. Ho capito, ma ci sono già, c'è già la Caritas, ci sono già non posso farlo anch'io, però non a spese nostre, chiunque è stato al centro di Roma o vi è risieduto e lavorato ha un'idea di che cosa vuol dire nella geografia storico-politica di Roma il circolo di cui lei, ma no, sono sincero, mica manco di rispetto, nella storia di Roma e del centro di Roma il circolo di cui lei è segretaria ha una storia che oramai è nota a tutti. Ma domanda, lo dico a lei che fa politica a Roma, il Tronca, io direi domani anche il sindaco, a quel punto le dà l'interlocutore, ma dice: cara segretaria del circolo PD di via dei Gibbonari, lei sarà d'accordo con me che con i soldi che io devo recuperare come sindaco di Roma troviamo una soluzione diversa per le sezioni del partito, compreso quelle del PD, ma io da quell'immobile a via dei Gibbonari dietro piazza devo Navona guadagnare. Ci guadagno un pacco di quattrini perché metterò un affitto commerciale a prezzi di mercato. Lei in quel caso dà ragione o no? Va benissimo. Non ha ragione, perché ma sono soldi di tutti, è patrimonio, sono soldi dei cittadini, se vuole, è un patrimonio, cioè sono soldi che entrano in cassa al comune e quindi sono più servizi, non è il servizio, è anche il circolo, non è solo un partito, noi facciamo rete sul territorio, dipende sempre, le ho detto all'inizio i criteri, dipende sempre come lei intende un circolo. Se un circolo è inutile, certo che ha ragione lei, vi rende di più una friggitoria. Se un circolo invece fa parte di un territorio integrante, non è solo la musealizzazione della memoria, che tra l'altro avrebbe un valore, quest'anno sono i 70 anni comunque, ma anche quel tipo di lavoro che fa sul territorio. Per esempio, io ho ricevuto in questi giorni che si è sparsa la notizia dello sfratto tantissime mail, tantissime attestazioni da parte di tutte le persone che sono di tutta Italia, che passano lì e si fermano. Lei lo sa, lo conosce meglio di me, cioè è un punto di... No, un punto di ritrovo, però vedi, non so, e poi vorrei anche coinvolgere Cuccari, ci scrivono: noi del Meetup Brescia 5 Stelle paghiamo 500 euro per un buco di soldi nostri, questo ci scrive un ascoltatore di Brescia. Cuccari, ma... lei perché lo ha fatto questa iniziativa? Perché sa, molti la elogiano anche via SMS, dicono dovrebbe essere assessore ideale a Roma, il modo migliore per rovinarla, insomma. No, lo dobbiamo per mettere in regola. Perché l'ha fatto? Sono un citoyen, quindi come si leggeva sulla porta d'ingresso in Francia a Parigi. E questo è fondamentale. Però io voglio dire anche che i 1200 euro ci è andato di lusso. Veramente di lusso, perché ci sono migliaia di appartamenti, compresi anche locali, compresi affittati anche comunque a sedi politiche, onlus che non si capisce, no? Piantagione dell'Alta Valle dell'Iri, che stanno a 0,40 centesimi, io mi sono imbattuto in situazioni 0,40 centesimi annui. Perché poi c'è anche come il gioco anno. Voi andate sul non disponibile, sì, sì. È così. Il gioco che hanno fatto è mettere uno più mensile. È così. E se tu leggi, ok, 300 euro, poi leggi 300 euro annui, ma qui stiamo parlando vicino a Palazzo Valadier, cioè stiamo parlando di una situazione incredibile. Io sono d'accordo con Giannino che è tutta Italia, qui siamo nella capitale, abbiamo... Se voi pensate che il numero di appartamenti, lo tanto di questi disponibili, corrisponde alla città di Rieti, Latina e Viterbo messi insieme, stiamo parlando di un'immensità, se no si fanno dei numeri e uno non si rende conto, no? Ma sono tre città messe insieme e abbiamo questo patrimonio stimato peraltro dalla finanza, secondo Libero, a 11 miliardi di euro, che non produce, non è che non produca soltanto, perde, ma è una spesa, perde, non solo, forza, noi abbiamo affittato, gli affitti a 7 euro. Cuccari, no, noi poi abbiamo affittato 5.000 No, dice no, Cuccari assessore, c'è un coro, non volevo levare la parola. Ma guardi, io penso davvero che citoyens, come ha detto lei, richiamando una tradizione del suo tipo, cambierebbero l'Italia se fossero diffusi dal basso, così come sta facendo e sta dicendo lei. Il mio è un invito a tutti coloro che sono in ascolto a replicare l'attenzione, la precisione e la voglia di impegnare parte del proprio tempo riappropriandosi della sovranità dal basso. Non si ottiene subito ragione, però attraverso la voice si preme, poi alla fine un commissario tronca è costretto a far qualcosa. A chiedere. Staremo a vedere, vi ringraziamo Giampaolo Cuccari e Giulia Urso, che è segretaria del circolo PD via dei Giubbonari, e insomma vedremo se tronca ce la farà, ma io forse invece la politica nove sarà quella dell'imbarcare gli sottosegretari NCD, perché poi come vedi questa è la politica, non il sottogoverno, eh. Ci dobbiamo fermare, caro Oscar, e ci troviamo lunedì. Va bene? Va bene. Tu domani, tu oggi pomeriggio, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene.